Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Medius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. In questa puntata saprete quando e dove è stata creata la più grande bolla di sapone. Benvenuti a Möbius e adesso ascoltiamo i titoli di questa puntata. Sfida alla scienza a colpi di bolle di sapone. Coinvolgerà le medie e le superiori di 4 città italiane, ma sono gradite nuove partecipazioni. Gli italiani e il sapere scientifico. È stato presentato a Torino l'annuario che descrive il rapporto tra scienza e società in Italia. Un romanzo, un giallo, avvolto nel mondo della fisica, delle particelle e delle dimensioni temporali. È l'ultimo libro di Bruno Arpaia, L'energia del vuoto. Nacque nel 1711 a Bologna. Si chiamava Laura Bassi. Fece anche 8 figli, ma è stata la prima donna in Europa ad avere una cattedra universitaria. I branchi di pesci, le comunità di formiche, gli assembramenti umani. La matematica sta scoprendo cosa accade quando gli esseri viventi si radunano in grandi numeri. Qui di fianco a me, ascoltatore, ascoltatrice, ho Chiara Albicocco impegnata in una doppia... Federico, sono un po' impegnata, bolla, aspetta, perché qui... di sapone. Un disastro, difficile. Che poi la bolla, difficile, quando esplode, mi finisce sulle apparecchiature e c'è pure il rischio che la gente non senta più niente. Esatto, quindi la smetto, mi siedo e sto buona. E forse Francesco Cigada, che salutiamo. Buonasera Cigada. Buonasera. Insegnante milanese, impegnato nel coordinamento scientifico di Scienza Under 18, ci spiegherà se effettivamente le bolle possono danneggiare anche le apparecchiature elettroniche. Cigada, Scienza Under 18, noi ogni tanto la seguiamo, è una manifestazione che ogni anno si inventa delle cose da fare, delle gare che coinvolgono studenti medie e medie superiori, no? Esatto. I più attenti si ricorderanno che l'anno scorso siamo andati a seguire con i ragazzi la sfida di catapulte. Esatto, c'eri tu a seguire le catapulte. Quest'anno vi siete concentrati su bolle di sapone, un grande happening scientifico che già parte in 4 città? Esattamente. Oddio, Scienza Under 18, le sue attività, fa exhibit scientifici, sì, teatro scientifico, foto scientifiche e altre attività. Questo è uno dei momenti, degli eventi che proponiamo in queste 4 città quest'anno. Sono Milano, Pavia, Mantova e Monza. Però se volessero aggregarsi altre città possono magari farlo. Del centro-sud, caspita! Dunque, noi stiamo espandendo verso Pescara, verso Vasto, verso altre situazioni. Faremo il prossimo convegno a Pescara, proprio per alimentare un po' un discorso tutto nazionale. Comunque abbiamo un sito in cui mettiamo questa documentazione e tutti quelli che vogliono collaborare, ricevere informazioni, ricevere anche il CD che abbiamo preparato su questa sfida, possono assolutamente richiederci. Noi siamo contenti, il nostro senso della nostra attività è proprio di lavorare insieme a tutti gli insegnanti sul fare scienza sperimentale. E allora ci gradiamo bene, scandiamo bene i riferimenti che poi entriamo nel vivo della scienza delle bolle. Allora, diciamo bene il sito www.scienza-under-18.org. E poi la nostra mail, che è moebius@radio24.it, per chi volesse appunto richiedere entrare il materiale, se ci fossero insegnanti del sud soprattutto e del centro interessati a partecipare alle sfide. Ecco, ma ora veniamo al punto, ecco, perché sì, Cigada, la doppia bolla a te non è venuta molto bene. Io però sono un disastro con le bolle, qui ci vuole la ricetta. Ci sono diverse ricette per far bene le bolle? Le ricette sono infinite. Di base la ricetta è semplicissima: 3 ingredienti, acqua, sapone e uno stabilizzante. Però anche lì ogni elemento va un pochino ragionato su. L'acqua, per esempio, è meglio se non ha minerali, demineralizzata, perché l'acqua di rubinetto ha un po' di sale di calcio e magnesio che reagiscono col sapone e gli sottraggono funzionalità. Acqua distillata, per distillata, intenderci. Esattamente, che si trova nei supermercati. Ecco, poi il sapone posso usare quello che voglio, quello delle mani, quello dei piatti? Risposta è sì, però, nel senso che il sapone migliore, sempre per le bolle ottimali, è meglio un sapone senza additivi. Il sapone è quello della tradizione, fatto con olio e una base, non so, con della soda. Il sapone di Marsiglia tagliato a scaglie, mescolato, scaldato, è già ottimale. È già ottimale. E tra i detersivi, non tutti sono uguali. Io non so se posso dare dei nomi commerciali. Già, perché qui a questo punto vabbè, per esempio, proviamo. Non li dico? Beh. Sì, veloce. Qui bisogna fare le bolle. Nelson Piatti, il Summit Piatti e lo Scala sono i migliori, però i mitici sono due prodotti americani, il Down e il Joy, introvabili, che vendono praticamente soltanto nei negozi di giocolerie per far bolle di sapone, importati direttamente dalla America. Quasi fatti apposta. Ecco, infatti, sì, da noi, ma là li usano per lavare. Certo. Non ci sono da noi, non sono commercializzati. Però adesso esistono in commercio anche dei saponi di Marsiglia liquidi che sono, li ho provati a usare, insomma, che seguono l'antica ricetta. Funzionano abbastanza. Buoni. Ecco, funziona. E invece il terzo ingrediente, che è forse quello che non tutti ci aspettano. Lo strumento, vuoi dire? No, lo stabilizzante. Ah, lo stabilizzante. Lo stabilizzante in realtà è fondamentale. Perché? Perché l'acqua in realtà tende a evaporare o tende a, per gravità, cadere verso il basso. Occorre qualcosa che non faccia evaporare l'acqua e rallenti la sua discesa verso il basso, allunghi la vita delle bolle di sapone. Allora, il migliore si sa qual è: la glicerina. Il problema è che la vendevano in drogheria una volta, ora in farmacia. Lo vendono in confezioni piccole da 100 millilitri, però se uno chiede al farmacista gli procura un litro, che a parità di volume è molto più economico. Però per chi vuol fare le cose in casa e fare belle bolle in casa, come stabilizzante può usare, non so, lo zucchero, il miele, la gelatina. Ma pensa tu. Zucchero a velo, gomma arabica, l'alginato. Ah, beh, insomma, in qualche modo possiamo fare, ecco. Assolutamente. Guardi, la bolla è una di quelle cose che tutti possono fare in casa con pochissimi ingredienti. Però volevo dare il mio piccolo segreto sullo stabilizzante. Ci dica. Per me è migliore della glicerina. La si trova al supermercato, è un po' caro. Cos'è? È un sciroppo di agave. Va bene anche, penso, lo sciroppo di acero. Questo sciroppo riesce a fare delle bolle che davvero riescono a durare a lungo e hanno una dimensione significativa. Scusi, ma lo sciroppo di agave dove si trova? Dove io non si ho mai trova? Visto. Non c'è. C'è. Mercati. Cercare sciroppo di agave. Una caccia all'oggetto. Però il problema non è soltanto quello dei tre ingredienti, ma anche i rapporti. Mi scuso di dare la mia ricetta segreta, la posso dare? Prima di passare alla scienza, un secondino soltanto. Sì, veloce. Tre parti di acqua demineralizzata, due di sapone liquido tradizionale e uno di glicerina o sciroppo di agave. Però ripeto che qualunque tipo di rapporto si ha, uno prova, sperimenta, è un vero laboratorio scientifico in cui ognuno trova la sua ricetta, perché le bolle vivono in funzione dell'umidità, del calore, della temperatura, sono sistemi instabili, complessi, interessantissimi, che in base alla situazione, insomma, accade di questo o di quello, quindi va studiato caso per caso, c'è l'individualità di ogni bolla in base al contesto in cui vive. Molta sperimentazione, esatto. E dunque, professor Cigata, su che cosa si sfidano gli studenti e gli insegnanti durante la gara del 10 maggio? Ci sono tre tipi di sfide, cioè la bolla creativa, cioè la classe può davvero inventare un modo assolutamente intelligente, divertente, simpatico di presentarsi con le bolle. Però dopo c'è la bolla ottimale, devono riuscire a fare in un vassoio grande del diametro di 70 centimetri la bolla più grande, la più longeva, la bolla in bolla, una bolla dentro una bolla, quante ne mettono o quante mani riescono a infilare dentro una bolla, basta bagnare una mano per cui ci sta dentro, può entrare dentro la bolla. E poi c'è un lavoro di classe di prove sperimentali, matematiche, tecnologiche, di costruire delle bolle, in modo che tutta la classe è impegnata proprio a fare questa festa della scienza delle bolle. Bello, divertente. Ma chissà se quel giorno ci sarà la bolla record. Di cui parleremo fra poco, Cigata, perché lei sarà al centro del nostro quiz. Va bene. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Siamo al quiz, pronti, che parliamo di bolle di sapone. Dunque, al mondo delle bolle di sapone vi abbiamo già introdotto poco fa e, come annunciato, il quiz di questa settimana è su di loro. Allora, la domanda è questa: qual è il record della bolla di sapone più grande che, per dare una misura, esprimeremo in tonnellate d'acqua che la bolla potrebbe contenere? Cioè, che dimensione che dimensione in termini di peso si è raggiunta? Allora, prima risposta, 500 kg, una bolla di 500 kg d'acqua potenziale, ci scriverete 500. Oppure, seconda possibilità, 1,5 tonnellate, ci scriverete 1,5. Terza e ultima possibilità, più di 3 tonnellate, ci scriverete 3. Che cosa si vince? Si manda sempre tutto allo solito SMS 349-238-6666. E che cosa si vince? Come libro, il titolo è L'aritmetica di Cupido, matematica e letteratura di Carlo Toffarori, edito da Guanda. In collaborazione con IBS.it. Ogni anno da 6 anni esce una ricerca fatta in Italia su come il pubblico percepisce la scienza, come si informa su di essa e cosa ne pensa. Alberto Agliotti ha intervistato Massimiano Bucchi, che è uno dei curatori di questa ricerca. Siamo al Circolo dei Lettori di Torino, è appena terminata la presentazione dell'annuario Scienza e Società a cura di Observa Science in Society. Abbiamo al microfono Massimiano Bucchi, docente all'Università di Trento, è uno dei curatori dell'annuario e anche uno dei coordinatori di Observa. Buonasera Bucchi. In due parole, che cos'è Observa e come è stato realizzato l'annuario? Observa è un centro di ricerca non profit che dal 2001, quindi da 10 anni, si occupa di offrire ricerche e dati su scienze e società che alimentino un dibattito il più possibile costruttivo. E l'annuario come viene? L'annuario è nato nel 2005, è pubblicato adesso dal Mulino con il sostegno della Compagnia di San Paolo, e l'idea è quella di fornire nella versione più sintetica e accessibile una serie di dati che possano interessare chi a vario titolo, dai ricercatori ai giornalisti e policy maker, si occupa di scienze e di scienze nella società. Allora veniamo ai risultati. Qual è la posizione degli italiani rispetto alla scienza, sia in termini di conoscenze, quindi il livello di conoscenze degli italiani, sia in termini di percezione della scienza? Dunque, quest'anno direi che abbiamo un livello di alfabetismo scientifico, cioè di competenze sulla scienza, che è rimasto abbastanza stabile, lievemente peggiorato dopo alcuni anni di crescita. Però direi che il dato più interessante è che, a fronte di una sempre maggiore esposizione a contenuti scientifici nei media, in particolare sul web, su cui abbiamo registrato un notevole incremento, c'è un aumento dei giudizi critici su scienza e tecnologia, in particolare legati alle loro implicazioni negative o potenziali implicazioni negative per l'ambiente e per alcuni valori che alcuni cittadini ritengono centrali. Ecco, però vedo qui anche che sono in crescita altri dati che riguardano invece la fiducia in qualche modo nella scienza. Cioè, le persone da un lato si riconoscono più facilmente in frasi tipo la scienza e la tecnologia cambiano troppo velocemente il nostro stile di vita, oppure la scienza e la tecnologia sono responsabili della maggior parte dei problemi ambientali, ma anche si riconoscono in frasi come i benefici della scienza sono maggiori dei possibili effetti negativi, oppure solo la scienza può dirci la verità sull'uomo e sul suo posto nella natura. Come si può interpretare questo? Si può interpretare sul fatto che, quando si tratta di bilanciare i vantaggi e gli svantaggi, è chiaro che il giudizio complessivo resta, come sempre in questi anni, piuttosto positivo. Quando si tratta di giudicare aspetti più specifici, emerge in particolare forza quest'anno qualche preoccupazione. Dopodiché bisogna tenere conto del fatto che in Italia in particolare parliamo di un'opinione pubblica molto sfaccettata e articolata, quindi è chiaro che parlare di tendenze generali tende sempre a mascherare delle fortissime diversità nel caso dell'Italia, sia negli atteggiamenti sia nelle competenze. Per esempio, l'approfondimento di quest'anno dedicato alle tecnologie digitali fa emergere non solo 2 ma 3-4 Italie, no? Da un lato persone in un numero magari abbastanza ristretto che hanno una grande familiarità, un atteggiamento molto positivo in questo ambito, e persone che noi abbiamo denominato tecno-esclusi, per cui, a parte il telefono cellulare, ogni altro rapporto con le tecnologie digitali che noi riteniamo aver rivoluzionato la nostra vita è praticamente assente. Ma ecco, com'è che gli italiani vengono a conoscenza delle ricerche scientifiche? Come si informano sulla scienza? Quindi come si costruiscono questa percezione? Naturalmente la televisione continua ad avere un ruolo piuttosto importante. Ripeto, in questo anno in particolare abbiamo registrato, soprattutto tra le nuove generazioni, una crescita molto consistente dell'uso del web. In questa chiave vale la pena di menzionare che gli italiani sono molto attenti soprattutto a quelle fonti che li mettono in contatto diretto con i ricercatori, per esempio i siti web degli istituti di ricerca, i blog dei ricercatori, oppure se usciamo dal web, per esempio gli incontri pubblici con i ricercatori, di cui gli italiani in Europa sono tra i più assidui frequentatori. Questo è il settimo anno e la settima edizione di questo annuario. Si può fare un bilancio, si può guardare come è andata in questi anni o sono ancora troppo pochi per poter avere un'indicazione di tendenza? No, si può sicuramente fare un bilancio generale. Naturalmente dipende un po' da che punto di vista lo si vuole guardare. Io credo che in generale, per esempio prima parlavo dell'esposizione alla scienza nei media, ci sia stata una crescita in questi anni, sia nell'offerta che nella domanda di scienza nei media. Certamente, ripeto, anche in coincidenza con alcune vicende, pensiamo recentemente a quanto casi molto discussi come l'influenza H1N1, la cosiddetta suina, tutto il dibattito sul clima, gli aspetti controversi che sono emersi anche nelle discussioni tra scienziati, alcuni di questi aspetti possono incidere in modo abbastanza profondo sugli orientamenti dei cittadini. Un'ultima domanda: come siamo messi rispetto al resto d'Europa, al resto del mondo, sia in termini di alfabetizzazione scientifica, sia in termini di scienza fatta in maniera attiva, cioè di istituzione scientifica? Come alfabetismo siamo nella media europea, non siamo certamente alle punte di alcuni paesi della Scandinavia, dell'Europa del Nord, ma neanche agli ultimi posti, mentre dal punto di vista della ricerca credo che il tema soprattutto delle risorse umane sia un tema abbastanza serio in Italia. Un dato che mi sembra emblematico e citato nell'annuario è quello dell'età del personale docente delle nostre università, che è la più elevata in Europa. E poi c'è anche quel dato che riguarda la presenza di istituzioni italiane all'interno di progetti finanziati dall'Europa e per contro la presenza di proponenti italiani. Sì, è un dato che evidenzia, diciamo, a fronte di performance che spesso sono anche brillanti dei ricercatori italiani, una non altrettanto adeguata performance delle istituzioni di ricerca. È un dato che rimanda al fatto che alcuni dei nostri ricercatori migliori non lavorano in istituzioni italiane. Grazie Bucchi, buonasera. Grazie a voi. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. San Diego negli Stati Uniti è già una città nella quale si fa molta sperimentazione ambientale, con i chioschi che comprano materiale elettronico usato, rischia di diventare la capitale assoluta delle tecnologie sostenibili. In breve, si va con il proprio cellulare vecchio, facciamo questo esempio, vicino al marchingegno, che è una specie di bancomat. Lui lo ingoia, lo valuta, sì, ho detto questo, lo valuta, e poi vi dice quanto vi può pagare. Se la cosa vi funziona, ecco che da una fessura escono i soldi. Il problema del recupero di materiale elettrico ed elettronico è uno dei più complessi e gravi a livello mondiale. Ne abbiamo a miliardi ovunque nel mondo, cellulari, tastieri, monitor, radioline, computer. Sappiamo quanta roba c'è in giro. Ci sono delle strutture, dei consorzi per il recupero, ma è tutto talmente tanto che un sistema diffuso di raccolta, accompagnato dal fatto che la comodità di raggiungere i chioschi e poi ottenere il pagamento è un fattore importantissimo, ecco, tutto questo potrebbe rendere il progetto di grande successo. Qualche chiosco con queste caratteristiche si è già visto qua e là in California, ma ora parte una sperimentazione forte a San Diego, come vi dicevo. Si tratta di un progetto che sta ancora ricevendo finanziamenti governativi, 14 milioni di dollari, perché le singole macchine costano non poco, visto che i numeri della produzione sono bassi. Il chiosco è un oggetto complesso, attenzione, sofisticato, ha un sistema software che è in grado di analizzare gli oggetti che il pubblico gli consegna, con un sistema di riconoscimento collegato a un grande database, e poi deve anche produrre una valutazione commerciale. Dunque, però, non è il caso di andare al chiosco con un apparecchio in buone condizioni che si vuole comunque dar via. In questo caso è meglio realizzare uno scambio in un negozio. Il chiosco dà infatti una valutazione basata sui materiali che compongono il singolo pezzo. Al momento paga in un intervallo che va dai $60 agli spiccioli. E qua Bruno Arpaia abbiamo un problema con questo libro, perché c'è la trama, come facciamo? Se la raccontiamo troppo? Ne raccontiamo un pochino, cercando di incuriosire il lettore. Vabbè, aspetta che ti presento. Bruno Arpaia, giornalista, collega, però scrittore, sei già alla sesto romanzo. E questo Energia del vuoto è appena uscito, edito da Guanda. Sì. Dunque, questo è un qualcosa sulla trama, adesso la diciamo, no? Il libro inizia con un padre che fugge con un figlio, però è il figlio che gli dice a un certo punto: ho la sensazione che stiamo scappando. Il figlio cos'ha? Un 10-11 anni? Una dozzina, cosa del genere. Sono in macchina che fuggono verso Marsiglia. Poi verso Barcellona. Il libro, diciamo, è costruito come un thriller dal punto di vista apparente, no? È un thriller in cui appunto ci sono padri che fuggono con i figli e si svolge nella gran parte del tempo al CERN a Ginevra, dove c'è parliamo spesso del CERN, il più grande acceleratore del mondo, la più grande macchina mai costruita dall'umanità, e lì appunto ci sono ricercatrici, fisici, scienziati, teorici, sperimentali. Ci sono fondamentalisti islamici, ci sono scienziati interessati a falsificare i dati, insomma c'è un po' di tutto, ma poi alla fine il libro cosa fai? È centrato attorno alla fisica. No, non stavo rivelando il... No, perché effettivamente non lo si può fare. Il libro è un tentativo riuscito di mischiare concetti di fisica. C'ha dei passaggi in quali tu svolgi proprio una funzione anche divulgativa di alcune cose fondamentali della fisica delle particelle, dell'astrofisica, degli acceleratori, però poi improvvisamente si gira pagina e ci troviamo invece in una situazione di azione molto precisa. Io non dico che cosa, a pagina 34-40 tu fai succedere proprio una di quelle robe grosse che non voglio dirla, però più grossa di così non te la potevi immaginare proprio. No, mi serviva una cosa che insomma fosse abbastanza grossa per inquadrare il clima, perché il romanzo è ambientato, diciamo, in un tempo fra qua a 4-5 anni, diciamo, in un futuro appena spiazzante rispetto a quello di oggi. E mi serviva perché insieme a questo discorso sulla fisica, che è evidentemente a cui tenevo moltissimo, perché a parte che è una mia passione, una mia ossessione, ma perché tengo moltissimo all'unione fra le due culture. No? Ecco. Da 50 anni e più dal saggio di Snow la situazione è migliorata un po', ma non tanto. E tenevo a far capire che gli occhi con cui gli artisti e gli scienziati guardano al mondo non sono poi così lontani, non sono così distanti. È necessario da una parte e dall'altra grandissima immaginazione, penso ai fisici teorici che normalmente oggi hanno molta più immaginazione di parecchi miei colleghi, me compreso. Sì, si inventano dei mondi e contemporaneamente, come dire, anche dalla parte dell'arte è sbagliato pensare che viva di fantasia e ispirazione o di fantasia alla Walt Disney. Anche l'arte ha le sue regole, i suoi paletti, che per esempio nella fisica sono dati dalla matematica. Per gli artisti, per esempio Michelangelo sceglieva dei blocchi di marmo difettosi perché lo costringevano a scegliere nuove posture per i personaggi. Ogni romanzo ha le sue regole, per esempio, per trasgredirne una bisogna inventarsene un'altra. Quindi immaginazione e rigore sono due aspetti che vanno insieme sia nell'arte che nella scienza. Del resto negli ultimi anni, nel corso del Novecento, la scienza è diventata molto meno esatta, per dir così, no? È diventata molto più, parla di possibilità, di probabilità, di indeterminazione, è diventata molto più misteriosa e non cerca di dare risposte esaurienti, ma di arrivare ad altre domande. Si pone delle domande per arrivare ad altre domande, che è quello che da sempre ha fatto l'arte. E quindi questo testo, che è appunto, come dicevo prima, fortemente contaminato di nozioni, di concetti fisici, però non è per te semplicemente un pretesto per avere una storia. C'è una scelta, un'indicazione che noi possiamo dare ai lettori e alle lettrici, e cioè c'è proprio un autore, in questo caso sei tu, che sta lavorando su questa relazione arte-scienza che deve diventare sempre più forte e che deve manifestarsi in un prodotto specifico come questo di un romanzo. Una delle due protagoniste del libro, una diciamo è la, una ricercatrice, una scienziata del CERN, che fra l'altro, come dire, mi è venuto quasi spontaneo perché nelle mie visite al CERN ho incontrato soprattutto donne, donne meravigliose, ce ne sono donne tante, bravissime, a partire da Fabiola Gianotti, che è la responsabile del più grande esperimento che c'è a Ginevra, e l'altra protagonista è una giornalista, la quale ha scritto anche romanzi e arriva lì al CERN per fare un'intervista, così quelle di routine come facciamo spesso nel nostro mestiere, ma rimane affascinata da questo mondo. Quindi cambia perfino le domande che le si pone in quanto scrittrice, no? Perché forse, dice, dopo tanto tempo che abbiamo posto domande alla storia, alla politica, e scriviamo romanzi attorno a questo, forse c'è bisogno di qualcosa di più fondamentale, di più alla base. Ecco, la fisica, io penso che stia oggi soprattutto in un momento emozionante, perché si è ha ricominciato a porsi le domande che si ponevano dai filosofi greci presocratici e da lì in avanti: cos'è la materia, cos'è lo spazio, cos'è il tempo. C'è un'altra indicazione, potremmo concludere su questo, che mi sembra interessante e che però invece è un po' sotto traccia, può essere utile darla a chi spero leggerà il tuo romanzo. Il tuo romanzo è fatto a stanze successive, ci sono continui accavallamenti di scene con delle loro temporalità, no? Quindi c'è un tempo frantumato in tanti pezzi. Qui tu ti sei direttamente ispirato al fatto che un'altra delle grandi questioni che è stata tirata fuori dalla ricerca più avanzata, più teorica oggi, è la natura del tempo, se effettivamente possiamo pensare che esista, che differenza c'è tra ciò che noi chiamiamo percezione del tempo e un tempo reale esterno, no? Sì, appunto, la cosa affascinante, una delle tantissime cose affascinanti della fisica di oggi è questo mettere seriamente in dubbio l'esistenza del tempo. Cioè è possibile, può darsi che alle nostre scale, noi, quello che noi percepiamo alle nostre scale come il flusso del tempo, in realtà a scale subatomiche non esista, a livello fondamentale non esista, e noi lo percepiamo. E quindi ho tentato di realizzare un'architettura del romanzo che provasse a far esperire al lettore l'esperienza di un tempo proprio, come diceva Einstein a proposito della relatività, no? Ognuno di noi muovendosi ha un tempo proprio che non è contemporaneo, non coincide con altri che si muovono. Quindi il libro, invece che svilupparsi linearmente secondo la nostra normale idea del tempo, cerca di fare in modo che di sviluppare la storia, e ogni lettore la può leggere a suo modo, secondo il tempo proprio. C'è un tempo che continua a sfuggire, anche il titolo, però qui forse diventerebbe troppo lungo, Energia del vuoto, va a cogliere un altro grande mistero, un grande mistero che è l'energia oscura, il 73% di quello che ci circonda, di cui non abbiamo assolutamente, insieme alla materia oscura che è un altro 23%, non sappiamo assolutamente cosa sia. Può darsi che all'interno di quello che noi chiamiamo vuoto, cioè il nulla, dove non ci sono più particelle, non ci sono più forze, non c'è più nulla, invece esista un'energia che noi non conosciamo, che chiamiamo oscura o forse energia del vuoto, e che quindi noi esistiamo perché veniamo dal nulla, che mi sembra bellissimo e poetico. Come dicono alcuni scienziati, forse il vuoto è semplicemente quello che noi non vediamo, ma in sé non esiste in assoluto. Grazie Bruno Arpai, Energia del vuoto, il tuo romanzo edito da Guanda ed è già in libreria. Possiamo trovarlo facilmente. Grazie ancora. Ciao. Grazie a voi. Come la giudichiamo? Una buona notizia o una notizia che comunque non ci piace? Vediamo un po', perché è sempre così con le cose che riguardano le tecnologie per la guerra. Però in questo caso si parla di proiettili elettromagnetici, quelli progettati dalla Taser International, che già fornisce alcune polizie del mondo di questo genere di armi. Si parla di proiettili, ma non è proprio così. Di fatto queste armi lanciano un impulso elettromagnetico che è in grado di paralizzare per un tempo di 5 secondi chi ne è colpito. Però si tratta di armi che lavorano a corta distanza, queste che sono in circolazione. Ora, il Pentagono ha commissionato alla Taser un nuovo progetto. L'impulso deve raggiungere i 100 metri e deve produrre un blocco del sistema muscolare per almeno 30 secondi. Dopodiché si prevede che a seguito di uno shock di questo genere la vittima dovrebbe comunque rimanere incapace di agire per diversi minuti. E qui sta il punto, l'interrogativo da cui siamo partiti. È forse positivo che questo genere di armi si possano sostituire a quelle che sparano e uccidono. Beh, insomma, non è facile capirlo. I tecnici militari dicono che questa innovazione eliminerebbe molte vittime civili quando ci si trova ad operare in situazioni come quelle in Iraq e in Afghanistan, nelle quali certe operazioni di pattugliamento si devono condurre in centri abitati. Sembra assolutamente, insomma, ragionevole questa idea, non v'è dubbio, solo che parlare di armi più buone di altre ha il sapore del paradosso assoluto e la contraddizione tuttavia non è eliminabile. Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Il nostro quiz era anch'esso sulle bolle di sapone. Ritorno a Francesco Cigada, il nostro insegnante di matematica e scienze. Allora Cigada, sì. La risposta da dare era: qual è la bolla, il record della bolla più grande? Beh, quella misurata per chissà quante bolle hanno fatto in giro per il mondo, il 9 novembre 2005 nei laboratori americani del Minnesota di Extreme Bubble hanno fatto una bolla che poteva contenere 3,2 tonnellate di acqua. Che è una misura effettivamente la migliore che possiamo dare per far capire quanto è grande una bolla, direi, no? Certo, certo, certo. Le bolle non hanno fine scientificamente, cioè hanno una fine perché muoiono come le altre cose, però di dimensioni possono diventare enormi, sì. E lei diceva che forse potrebbero esserci anche di più grandi. Questo è il record, diciamo, ufficiale, quello accertato. Esatto, esatto, esatto. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Il suo nome, Laura Bassi, sembra riferirsi a una persona dei giorni nostri. Invece è la storia, poco nota, ma molto importante, di una donna di 3 secoli fa. Ce ne parla Barbara Gallavotti. Nel 1711, 300 anni fa, nasceva a Bologna Laura Bassi. È la prima donna in Europa ad ottenere una cattedra universitaria, quindi a suo modo una pioniera, è parte di un piccolo gruppo di donne che per qualche decennio a Bologna anticipò quello che è stato poi un contributo femminile nel mondo della ricerca, che, come in molti altri campi, è divenuto la norma solo da meno di un secolo. Ne parliamo con Raffaella Simili, storica della scienza a Bologna. Fra l'altro, anche Raffaella Simili ha appena segnato un altro traguardo nella faticosa marcia femminile alla conquista di un ruolo paritario nel mondo della ricerca, perché, oltre a essere docente a Bologna ovviamente, è appena divenuta la prima presidente donna della Società Italiana di Storia della Scienza. Buonasera Raffaella Simili e congratulazioni. Buonasera. Ci presenta Laura Bassi? Laura Bassi, nata nel 1711 come prima è stata detto, studia dentro la famiglia, era la famiglia di un'estrazione borghese, prima matematica, materie umanistiche e infine approda a studiare fisica all'Istituto delle Scienze di Bologna. Era molto seguita dal cardinal Lambertini, il futuro Papa Benedetto XIV, che aveva particolarmente a cuore la promozione di un contributo femminile nel campo della cultura. Oltre a lei, altre donne venivano seguite dal legato pontificio, cioè dal cardinal Lambertini, come per esempio la ceroplasta Anna Morandi Manzolini. Si preoccupò anche di avere come soci onorari dell'Istituto delle Scienze Faustina Pignatelli, Maria Gaetana Agnesi. Laura Bassi si laurea nel 1732 in filosofia naturale, ovvero in fisica sperimentale. Quindi un piccolo manipolo di donne, fra le quali Laura Bassi in qualche modo spicca perché fa qualcosa di più rispetto alle altre. Hai detto giustamente, fa proprio qualcosa di più perché a distanza di pochi mesi dalla laurea nel 1732, il 29 ottobre, le viene assegnato l'insegnamento di fisica sperimentale all'università. Quindi è la prima docente universitaria nel mondo internazionale, io direi, e da quel momento in poi diventa un'attrazione, per tutti gli scienziati europei, una vera e propria donna prodigio, potremmo dire. Fra l'altro superando anche qualche diffidenza da parte dei colleghi maschi, come era da aspettarsi. Sicuramente sì, anche qui ci furono ovviamente ostilità, come ovvio, e ancora una volta intervenne il futuro Papa per assicurarle un posto all'interno dell'Accademia delle Scienze di Bologna, con uno stratagemma, credo condiviso con Laura, i posti dell'Accademia erano 24 e il Papa ne istituì uno in soprannumero, il 25esimo, che era legato proprio alla persona di Laura, che con Laura sarebbe scomparso. Nel frattempo la vita familiare procedeva a pieno ritmo, direi. Sì, Laura Bassi sposa un collega fisico, Giuseppe Veratti, e con lui ha un buon feeling, considerato che hanno ben 8 figli, di cui 5 sopravvissuti, insieme lavorano. Ecco, una stagione di grande contributo femminile alla vita intellettuale, al pensiero, che però alla fin fine dura pochi decenni, purtroppo. Beh, dura pochi decenni, però diciamo l'intera metà del Settecento è ricca di queste donne. La peculiarità di Laura Bassi è che riesce a diventare docente laddove semmai le altre restano solo ricercatrici, spesso nei salotti, già che erano i circoli aristocratici quelli che portavano avanti ricerche anche pionieristiche. Ecco, poi nell'Ottocento queste opportunità decrescono e all'inizio del Novecento una fisica geniale come Lise Meitner verrà a stento tollerata all'Università di Berlino, anzi le si chiederà di fare ricerca negli scantinati perché i piani alti non si addicevano alle donne. E addirittura gli astronomi raccontano che fino a tempi relativamente recenti erano preclusi alle donne gli osservatori con scuse abbastanza discutibili, tipo il fatto che mancavano le toilette per donne e quindi non potevano frequentare questi luoghi. Oggi ovviamente le cose sono molto cambiate, esistono ancora grandi margini di miglioramento. Qual è l'eredità migliore che ci ha lasciato l'esperienza di Laura Bassi, secondo lei? Ma l'eredità migliore che ci ha lasciato l'esperienza di Laura Bassi, pur lontana nel tempo, è la tenacia di questa ricercatrice, che è dotata sicuramente di grande intelligenza, è riuscita però per tutta la sua vita a lottare, ad ottenere, lottare sempre di più, in modo tale da poter essere costantemente in primo piano. Anche oggi le donne devono lottare per essere costantemente in primo piano, e quindi questo mi sembra che sia l'ascito più significativo che Laura Bassi ci ha potuto indicare. Grazie Raffaella Simili, buonasera. Buonasera. C'è una matematica che studia le concentrazioni di esseri viventi, anche quelle umane, certamente, ma voi adesso pensate a quelle immagini che probabilmente vi è capitato di vedere più volte in documentari sulla vita marina, quelle immagini nelle quali si vedono branchi enormi costituiti da qualche migliaio di individui che si muovono in modo uniforme, come un gigantesco corpo di ballo. Le sardine, per esempio, hanno questo comportamento, no? Ecco, il branco si muove cambiando direzione con una frequenza abbastanza rapida, e quello che è impressionante è come tutti i pesci manifestino una sintonia quasi perfetta. Ebbene, dei gruppi di ricerca che mettono insieme matematici, esperti nella costruzione di modelli via computer e anche biologi marini, studiano queste movimentazioni e stanno scoprendo che a regolarle ci sono dei capi branco. Ma aspettate, perché non è così semplice. Una tipica situazione che determina il movimento dei grandi branchi è quando ad essi si avvicina un predatore, ed è qui che emerge in modo particolare la funzione dei leader. Ian Cousin della Princeton University negli Stati Uniti è uno di questi ricercatori. Lui è un matematico. Gli ho chiesto: ma com'è che funziona questa storia dei leader del branco? Well, it's very hard to know how many individuals within these groups actually have information. The groups are constantly splitting up and reforming again. And so, è molto difficile capire come si manifesta questa funzione del leader, dice Cousin, perché non è facile capire quanti individui siano in possesso delle informazioni che guidano il branco. Un branco che, fra l'altro, continua a ricomporsi ad ogni cambio di direzione. Ci sono diversi leader, ma non sono sempre gli stessi. L'informazione che viene utilizzata per decidere in che direzione muoversi è generata localmente, e così la leadership, dice Cousin, può essere trasferita, e quindi non è importante sapere chi detiene l'informazione utile. Non conta sapere chi ha questa informazione, perché essa è generata dal contesto. Allora, Attenzione, il branco usa i leader come se fossero dei sensori che volta per volta si attivano e sono quindi dei sensori creati di momento in momento, come se il tutto fosse una macchina che deve orientarsi in un dato ambiente, il che significa che in realtà non ci sono leader, che non ci sono dei capi branco. Diciamo meglio, c'è un sistema che crea ad hoc, di momento in momento, delle funzioni di orientamento. Ci sono altri movimenti di branchi con comportamenti alquanto straordinari, fra tutti le cavallette, e qui parliamo di milioni di individui. Ebbene, qual è la forza principale che muove questi branchi? Il cannibalismo, pensate un po'. Le cavallette si mangiano l'un l'altra, ma facendolo continuano anche a spostarsi. Ancora Cosen che risponde alla domanda: come mai le cavallette, se si mangiano l'un l'altra, si spostano per centinaia, migliaia di chilometri tutte insieme? So one of the real paradoxes is, you know, if these locust swarms are driven by cannibalism, why don't they just leave the swarm? Certo, uno dei grandi paradossi è perché in un branco che è guidato dal cannibalismo non si genera un comportamento per cui gli individui che lo compongono tendano a scappare da questo branco. Però, dice Cosen, dobbiamo tenere presente che questi sciami si formano nel deserto, quando c'è una forte mancanza di cibo. È per questo che si spostano alla ricerca di altro cibo. Ora, se gli individui abbandonassero il branco, sarebbero destinati a morire, perché non c'è vegetazione di cui cibarsi. Mentre se stanno nel branco, possono nutrirsi uno dell'altro fino a quando non trovano una situazione migliore con vegetazione a sufficienza. Come vedete, siamo in presenza di una logica stranissima, nella quale è evidente che il vero animale pensante è il branco, lo sciame, e non i singoli individui. Questo era già stato capito con i primi studi sulle formiche, ma oggi si hanno strumenti matematici e sistemi di simulazione via computer molto avanzati che consentono di andare molto di più in profondità. Quanto è grande la Groenlandia? Per avere un'idea si potrebbe partire dalla seguente domanda: se dalla Groenlandia sparisse una porzione grande come tutta la Francia, ce ne accorgeremmo? Beh, a colpo d'occhio no, e quindi vuol dire che la Groenlandia è grande, ma se guardiamo con attenzione e facciamo dei confronti, la differenza si vede. Parlo al presente perché il fatto è accaduto: una superficie di ghiacci pari a quelle della Francia si è sciolta nel 2010, è stato fatto il bilancio adesso. Ed è la botta più grossa, perché la Groenlandia negli ultimi 30 anni si è sciolta a una media di 17.000 chilometri quadrati all'anno, e la Francia, come sappiamo, molto di più, intorno ai 530-140.000 chilometri quadrati, se non vado errato, una roba così. Nel 2010 la durata della stagione degli scioglimenti è stata particolarmente lunga, si sono avuti circa 50 giorni in più di quelle condizioni di temperatura che determinano lo scioglimento, condizioni che si sono protratte fino a metà settembre, mese nel quale da quelle parti di solito si fa già sentire un clima invernale. Tutto questo ghiaccio che se ne va, attenzione, non è ghiaccio che galleggia, ovvero non si tratta di costa della regione lungo la quale il mare ghiaccia, e quindi il fatto che si tratti di ghiaccio su terra vuol dire che quando si scioglie diventa acqua che finisce in mare, innalzandone il livello. Il mare ghiacciato invece già occupa un volume che in caso di scioglimento viene riempito dall'acqua ex ghiacciata, e questo processo non contribuisce all'innalzamento delle acque. Quanto è questo ghiaccio che si scioglie? Perché vi verrà da commentare, d'accordo, una superficie come la Francia che se ne va, ma quello che conta è sapere quanto è spessa questa coperta di ghiaccio, un metro, 10 metri, quanto? E qui il problema: in alcuni punti si raggiungono i 5 chilometri di spessore. Oh, non venite a dirci che non sapete fare bolle di sapone di almeno un metro di diametro, perché vi abbiamo spiegato tutti i segreti, tutte le ricette migliori. Quindi esercitatevi e poi ci sentiamo fra 7 giorni. Buona settimana.